Bersagliere a cento penne, Malalpine ne ha una sola, un po' più lunga, un po' più mora. Solalpine la può Love.